Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti. Bene, oggi trattiamo un tema veramente intrigante. Intrigante è nel nostro paese si è smesso da tempo di mangiare bene? Questo è un interrogativo che non è un interrogativo da parte del sottosegretario alla cultura Ilaria Borletti Buitoni, è invece un'affermazione alla cui aggiunta scopazziamo troppo dalla cucina francese. Ora, io voglio lanciare questo dibattito anche tra voi radioascoltatori. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Poi sentiremo anche la stessa sottosegretaria e poi dirò anch'io la mia opinione. Ma prima voglio chiedere, ho due ospiti iniziali, ho un grande chef e ho un critico che da 15 anni gira l'Italia, prima per una guida e ora anche per, diciamo, fa il giornalista, quindi si occupa sempre di cibo, gira sempre i ristoranti. Buongiorno Marco Bolasco. Buongiorno a voi. Bene, Marco, tu per tanti anni che giri l'Italia, giri la ristorazione, ma si mangia davvero peggio che in passato? Ma io posso dire che forse se mi occupo di tutto questo è perché ho scoperto lo straordinario livello qualitativo della cucina e dei prodotti italiani, quindi assolutamente no. In questo momento sono in Campania, ho incontrato centinaia di persone intorno a me che sono in questi luoghi non solo perché c'è una natura meravigliosa, una straordinaria, ma c'è un pezzo importante del nostro patrimonio di beni culturali, la cucina. Sono qui perché si mangia benissimo. E quindi non capisco davvero come si possa dire una cosa del genere. Beh, tantomeno che stiamo copiando dalla cucina francese, perché era una roba di 25-30 anni fa. Solo che la gente ogni tanto dice un piatto di nouvelle cuisine quando vai in un ristorante che vede qualcosa di diverso. Questo è inconcepibile, nel senso che la nouvelle cuisine sì, l'hanno fatta 4-5 chef italiani, ma poi è finita da tanto tempo. Comunque voglio sentire anche Fulvio Pierangelini, che ormai è diventato un globetrotter che gira il mondo e quindi può fare anche dei paragoni. Buongiorno Fulvio. Buongiorno a voi, buongiorno Marco, buongiorno. Ma tu cucini veramente peggio di qualche anno fa, Fulvio? No, qui si parla in assoluto che si cucina male. Sì. Io cucino, credo, sempre meglio, anche grazie allo splendido patrimonio di prodotti che abbiamo. Sono appena atterrato, sono in Sicilia e insomma, parlare di prodotti con questa natura, parlare di cucina è meraviglioso. Se vuoi, la mia cucina è diventata un po' più crudele come questa terra, ma io spero ancora di saper cucinare. Ecco, ma secondo te il livello medio italiano rispetto a 15-20 anni fa della cucina italiana, della ristorazione, perché qui più che altro non parliamo delle famiglie, parliamo veramente della ristorazione. Tu che sei anche in giro per il mondo puoi fare anche un confronto con gli altri paesi. La ristorazione italiana è talmente variegata che solo affermare un concetto così, un macro concetto, è totalmente sbagliato. Ci sono mille realtà, mille storie. Io ripeto sempre che ogni cuoco, dalla signora che fa la sfoglia nella trattoria di campagna al cuoco magari più celebre, più fortunato, abbiamo tutti la stessa dignità. E ognuno di noi mette il meglio che sa, che può. Sono storie, sono mani, sono gesti che si ripetono, sono la meraviglia di una cultura che ci portiamo dietro da secoli. Per cui dire che si mangia male, ci sono quelli più bravi, come in tutti i mestieri, ci sono quelli più che fanno degli strafalcioni, però parlare che si mangia male, insomma, sono discorsi da bar sport della gastronomia. Oggi va di moda questa cosa e lasciamo, tolleriamola, però. Comunque può essere anche un autogol per il turismo, ma già un sacco di radioascoltatori stanno intervenendo. Tiziana da Milano, buongiorno Tiziana. Buongiorno Davide. Prego. Io volevo dire che sono assolutamente d'accordo con il sottosegretario. Bene. Perché secondo me un conto sono i prodotti italiani, quindi come gli ingredienti, partiamo da basi veramente incredibili. Poi ovviamente non tutti sono dei grandi chef, ma ritengo che l'offerta di massa sia scaduta tantissimo. Io vivo a Milano e francamente vedere questi bar del centro di Milano che espongono queste fotografie di questi piatti che già dalla foto veramente non sono per niente invitanti, che secondo me veramente sono un'offesa a quello che è il nostro patrimonio storico, come giusto diceva chi è intervenuto prima di me, e quindi ritengo che forse anche qui, nel momento in cui dobbiamo tutelare una nostra immagine, bisognerebbe fare degli standard. Beh, Tiziana, distinguiamo secondo i bar con i piatti pronti o la piastra infuocata che cola di grasso, sono un discorso. Qui si parla di ristorazione, si parla di tavole dove ci si può sedere, dove si può ordinare di fronte a piatti anche piatti caldi e piatti pronti, non pronti, ma sicuramente fatti al momento. Quindi diciamo che sono due mondi. Bolasco, tu cosa ne pensi? No, anch'io penso però una cosa, che forse noi dobbiamo interrogarci come comunicatori, Davide, perché c'è bisogno di chiarire meglio qualche cosa in questo mondo. Se viene percepito ancora da tutti questo stacco forte tra la cucina genuina, semplice, buona, di casa, e l'alta cucina come qualcosa da stigmatizzare, che mistifica la bontà, la genuinità, probabilmente anche noi dobbiamo fare qualcosa di più per far conoscere meglio invece il grande lavoro che c'è stato da parte dei cuochi in questi anni, che sono quelli che di fatto sono riusciti a diventare grandi ambasciatori della cultura e della cucina italiana, e che fanno sì che oggi si mangi molto meglio di 15 anni fa. Probabilmente, io questa è una cosa che ho detto in più di un'occasione, il fatto che in Italia si abbia una cultura gastronomica naturale, diciamo di famiglia, un patrimonio locale, regionale che ci portiamo tutti quanti dietro come un piccolo tesoro, fa sì che si tenda a svalutare ciò che arriva da fuori, quasi che la sia un fatto naturale, e sia un fatto naturale. Però noi dobbiamo fare qualcosa di più, perché altrimenti questa sensazione, no, che tu avrai visto in questi giorni, non è stato solo il commento di Tiziana, ce ne sono stati altri, certo, in fondo un po' favorevoli a questa cosa, denota che c'è un difetto di comunicazione. Dobbiamo farla conoscere questa grande cucina ai nostri grandi cuochi meglio. Bene, grazie a Marco Bolasco e Fulvio Pierangelini. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di cucina italiana, se è originale, se sta perdendo la propria identità, se si mangia peggio che in passato. Però sentiamo ho tanti radioascoltatori che stanno chiamando, tanti SMS. Aldo dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno Davide, io gestisco da tanti anni con la mia famiglia, da tantissimi anni, il ristorante a Due Carrare, il ristorante di pesce e Letizia. Senti una cosa, è vero che ultimamente hanno ragione i radioascoltatori, si mangia, l'offerta è peggiorata perché abbiamo ormai la ricerca esasperata dello spendere meno. Purtroppo per mantenere una qualità di un ristorante, io dico qualità non solo nel cibo ma nella pulizia della cucina, dei locali, si devono spendere tanti soldi. Allora noi troviamo delle realtà dove a un certo momento non puoi spendere 8-10 euro per mangiare. È vero che c'è la necessità con la crisi di spendere poco, però si può spendere poco mangiando benissimo. Ha ragione Pierangelini quando dice che c'è ancora la signora che tira la foglia a mano, che ha la passione, che fa un piatto di tagliatelle. Però bisogna che il cliente scelga anche il posto giusto, dove ha fiducia, dove va da tanti anni, che scelga un posto. Beh, Aldo, scusami, qui bisogna fare un netto distinguo tra la cucina di casa e la cucina della ristorazione, perché non possiamo, diciamo, metterle sullo stesso piano. Quindi sono due mondi completamente diversi, come la cucina della ristorazione è diversa dalla cucina di bar di cui si vede oggi così tanto scempio in giro per l'Italia. Ma ora abbiamo con noi il sottosegretario alla cultura Ilaria Borletti Buitoni, che tra l'altro ricordo è ex presidente del FAI, che ha un bellissimo ristorante a Varese, tra l'altro il FAI, a cui chiedo direttamente la sua affermazione che ha fatto, poi mi sembra che ci sia stata anche così una seconda affermazione, che dice che nel nostro paese si è smesso da tempo di mangiare bene. È così, sottosegretario? Buongiorno. Ma guardi, io non ho fatto esattamente quell'affermazione, okay. Io ho detto una cosa diversa, io ho detto non mi piace la cucina in Italia quando dimentica la propria tradizione culturale, che è una tradizione secondo me straordinaria, perché era una tradizione fatta di differenze dalle varie regioni e quindi di identità diverse, e credo che questo facesse sì che la nostra era una cucina unica al mondo. Quindi qualche volta la ricerca forzata verso percorsi culinari che ci portano forse più vicino alla tradizione di quello che avviene in altri paesi, ma che ci fanno scordare la nostra identità di cucina, A me personalmente non piace, ma questo è un discorso prima di tutto che mi riguarda e secondo che credo che ponga un problema non banale, cioè quanto l'innovazione e la ricerca in campo culinario, cosa che molti grandi chef fanno in modo assolutamente eccellente, debba o no riprendere le radici culturali della nostra cucina. Guardi, lei ha lanciato un assist a uno chef che è stato giudicato dall'Accademia della Cucina Mondiale il numero uno al mondo e recentemente il numero tre al mondo da quella classifica dei famosi 50 ristoranti, Massimo Bottura. Buongiorno Massimo. Ciao Davide, ciao, buongiorno sottosegretario. Buongiorno. Hai sentito le affermazioni del sottosegretario? Tu cosa ne pensi? Sì, io penso che innanzitutto vorrei spendere una parola in favore delle osterie, perché ci tengo particolarmente. Io penso che ci siano delle osterie in questo momento, e ti posso citare alcuni in Emilia, no? Gente come Franco del Mirasole, Amerigo, l'Osteria Giusti, l'Osteria Bottega, Rubiara, ai due platani di Parma, che sono dei ragazzi giovani che hanno scelto di fare questo mestiere, hanno scelto di farlo interpretando il territorio e interpretando la cucina di una volta. È come interpretare la musica. C'è chi la può scrivere la musica e c'è chi la interpreta. Allora, interpretarla cosa significa? Avere rispetto di quello che è il passato, di quello che è stato scritto e poi riprenderlo in una chiave moderna, alleggerirlo. Uno non può mangiare il cotechino di 500 anni fa. Perché? Perché non riuscirebbe neanche a digerirlo, il nostro modo di mangiare, di vivere è cambiato completamente. Io penso che il sottosegretario si deve interrogare su una cosa. Per evolverci, e questo l'ha fatto l'Accademia della Cucina Mondiale quando mi ha premiato, ha proprio scritto, cioè per evolversi e proiettarsi nel futuro bisogna guardare il passato in una chiave critica e non nostalgica per portare il meglio del passato nel futuro. In questo modo si prendono le cose fondamentali che ci ha insegnato il passato, i nostri nonni, le nostre eredità, per portarle nel futuro, ma no, in una chiave contemporanea. Certo. Ed è stato quello che mi ha permesso a me personalmente di rivalutare e di rivedere tutta una serie di cose, tipo piatti come il bollito non bollito o le tagliatelle al ragù, che non perdono la poesia del passato, non la perdono assolutamente, anzi la rievoca, e la rievoca in un modo ancora migliore di quello che era il passato. Un po' come mia mamma quando viene a mangiare l'osteria francescana, che alla fine ordina sempre i tortellini e tutte le volte mi dice ma i tortellini che faccio io sono un'altra cosa. In realtà sta guardando il passato in una chiave nostalgica, ma il passato in una chiave nostalgica lo guardi 50 anni fa, c'era della povertà, non c'era niente da mangiare. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di niente. Bene. Adesso ci sono questi artigiani straordinari, questi cuochi straordinari che hanno scelto di diventare dei cuochi, degli artigiani, dei contadini, degli allevatori, e fanno delle cose straordinarie come Gabriel Blini, Paolo Parisi, ma te ne posso dire tantissime. Beh, sai, infatti su questo io volevo tornare un po' al sottosegretario, perché parlava prima di diciamo che la diversità se ne sta andando. Io credo invece che sui vari territori la diversità stia sempre di più emergendo, perché i prodotti del territorio sono diversi in Italia, sono il nostro vero patrimonio, il grande patrimonio è la diversità dei prodotti. E volevo richiedere appunto al sottosegretario se voleva reintervenire su quanto era stato detto anche da... Io non ho detto, mi scusi, perché guardi, l'altro giorno sono stata a Venezia, ho dato un'intervista, questo non c'entra sulla cucina, un giornale autorevole ha scritto Borletti contro le navi, un giornale autorevole ha scritto Borletti a favore delle navi, quindi purtroppo qualche volta si fanno dire delle cose alle persone che non sono esatte. Io non ho detto, a parte che mi è simpatica la mamma di Massimo Bottura, anche se non lo conosco, ma non ho detto che io sono dell'idea che oggi si tradisca sempre le radici culturali e che si debba guardare al passato in modo nostalgico. Quello che ho detto è che non mi piace quella cucina italiana che tradisce le radici culturali per avviarsi su percorsi che le dimenticano, che è un altro discorso. Ma io, il discorso che ha fatto Massimo Bottura, io lo condivido in pieno, so benissimo che ci sono dei cuochi anche giovani che vanno sulla strada della sperimentazione e dell'innovazione usando ingredienti, usando, come dire, percorsi del passato e rileggendoli in un modo contemporaneo. E questo va benissimo, perché comunque è la grande identità della cucina italiana. Quindi volevo chiarire il mio pensiero solo per dire che non voglio assolutamente che venga interpretato come qualcosa di contro a quello che oggi fanno molti cuochi, molti ristoranti, molti grandi chef. È semplicemente il dire: non dimentichiamoci chi siamo e su questo costruiamo quello che saremo dal punto di vista della cultura culinaria italiana. Bene, grazie, ringrazio del suo intervento che ha chiarito molte cose. Io voglio sentire anche un po' di radioascoltatori. Marco da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire, per me in Italia si mangia ancora bene. Probabilmente sono i ristoranti più famosi o pseudo tali che si inventano o ripropongono delle ricette troppo complicate dove non c'è bisogno, a volte con degli accostamenti troppo azzardati, e come è capitato a me in un notissimo locale zona Franciacorta, mi hanno invitato perché io avrei mai potuto permettermelo, e dopo una serie di piatti diciamo troppo complessi mi hanno portato il cappone crudo. Guardi, secondo me comunque diciamo che ci sono tanti luoghi comuni e io ne ricordo uno secondo me importante. Quando Gualtiero Marchesi negli anni 80 diciamo era diventato molto noto, la gente diceva fa dei piatti molto, porzioni molto piccole e le cose le lascia tutte semi crude. Io di fronte a questa affermazione di una signora in un ristorante ho chiesto quante volte era andata in quel ristorante, mi rispose zero. Ecco, io credo ci siano molti luoghi comuni che vanno avanti. Io credo che il cappone crudo sicuramente magari sarà stato riprovevole, quello che vuole, ma era sicuro che non era crudo e come era contornato, come era preparato. Io credo che bisognerebbe anche molte volte parlare anche di quello che secondo me si mangia, senza dire si rifà la nouvelle cuisine come si sente dire continuamente, senza sapere bene cosa è stata la nouvelle cuisine, semplicemente perché c'è un qualcosa di diverso da quello che è il proprio pensiero. Quindi bisogna anche rispettare. La cucina non si può fermare, la cucina è contaminazione ed è evoluzione. Pensare di mettere un bastone e dire fermiamoci e non andiamo avanti, secondo me è un errore clamoroso. Non so se lo pensa così Massimo Bottura. Bravissimo Davide, hai centrato esattamente in pieno l'argomento. In un mondo come oggi, se tu vai al mercato di Via Albinelli a Modena, tu vedi i banchi di gente, degli africani, vedi i banchi di tutte queste nazioni che arrivano, che entrano, che diventano parte, che si integrano nella nostra società. La cosa fondamentale, certo, condivido pienamente col sottosegretario, che non bisogna perdere l'identità, bisogna sempre mai dimenticarsi chi si è, da dove viene, perché attraverso il passato si trasmettono appunto queste emozioni, ma è fondamentale aprirsi, lasciarsi contaminare in un modo saggio e non selvaggio. Ma guarda che perdere questa identità. Il discorso è chiaro, cioè sui prodotti. Noi in fondo siamo contaminati dalle caravelle, perché tutto quello che è fatto sulla dieta mediterranea ci è arrivato. E oggi abbiamo ovunque lo zenzero e non possiamo bloccare lo zenzero con le correnti di immigrazione che ci sono. Certo, bisogna salvare le origini e l'identità, però sicuramente non si può dire tutto fuori, prendiamo solamente la nostra identità. È un errore clamoroso. Grazie a Massimo Bottura, sentiamo Massimo da Vercelli, un radioascoltatore. Buongiorno Massimo. Buongiorno Alessio Paolini. Buongiorno 30 secondi. Io semplicemente volevo portare un po' la mia esperienza molto velocemente. Io da anni sono chef di cucina, da una ventina d'anni mi occupo quasi solo esclusivamente di consulenza nella ristorazione, e girando nei locali di Mezza Italia, nelle strutture di Mezza Italia, se ne vedono delle belle, mi verrebbe quasi da dire, cose che voi umani non potete neanche pensare. Con questo non voglio demonizzare nulla, però il problema fondamentale è sicuramente la materia prima. Ah beh, certo, sicuramente la mentalità del ristoratore, dove purtroppo si vedono molte volte, faccio un esempio proprio che è alla portata di tutti e è riscontrabilissimo, nella maggior parte dei casi quando si parla di una grigliata di pesce, ti trovi Gamberone IQF Argentina 812, ti trovi sì. il salmone decongelato. Massimo, siamo d'accordo sulla materia prima, bisognerebbe fare una cosa a sé stante, è evidente, bisognerebbe parlare soprattutto anche di olio, visto i dati che sono emersi recentemente, ma ne parleremo la prossima trasmissione. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di questo argomento, appunto, se in Italia oggi si mangia peggio che in passato. Ebbene, abbiamo sentito il sottosegretario che in un certo senso ha così, come dire, chiarito il suo pensiero, anche se secondo me ogni volta qui che si fanno le dichiarazioni il giorno dopo si torna indietro o si dice che si sono state interpretate male. Comunque continuiamo, voglio sentire Tommaso da Latino, radioascoltatore. Buongiorno Tommaso. Prego Tommaso. Buongiorno. Allora, ascolta, il mio intervento era riferimento, vedo che voi avete parlato molto della ristorazione, però in realtà è che le famiglie italiane non è che tutte vanno al ristorante dove ci sono quelli dove si mangia più o meno bene, il problema è all'interno della famiglia, con quello che praticamente si cucina. Io ho notato questo, ho 55 anni, ma ho notato in questa breve esperienza che le famiglie, quelle nuove, le nuove generazioni, ma anche diciamo quelle della mia età, hanno cambiato totalmente il modo di considerare la cucina italiana, cioè si preferisce andare nei fast food anche con i nipoti perché c'è la voglia dell'hamburger piuttosto che di altre cose e non di insegnare quello che era il modo di cucinare dei nostri nonni, dei nostri genitori, che guarda caso durante quel tipo di alimentazione si avevano meno problemi che di quelli che abbiamo oggi. Non a caso l'Italia oggi a livello di bambini sta aumentando e sta diventando forse il primo paese europeo con problemi di obesità infantile piuttosto che di altre problematiche legate al diabete e quant'altro. Quindi sicuramente si mangia male, per me, rispetto a come mangiavano i nostri nonni, i nostri genitori, perché si è perso un po' il modo di insegnare. Tommaso, mi scusi Tommaso, ma dobbiamo fare un distinguo. Dobbiamo fare un distinguo, sì, sulla cucina di casa, la cucina veloce e la cucina della ristorazione. Mi sembra che il discorso sulla casa sia un po' difficile andare a identificare come si mangia oggi nelle case, che si mangia meno, io sono d'accordo con lei, che si mangia sempre più anche in fretta e velocemente nei centri metropolitani, anche per motivi di lavoro e per motivi di tempo, sono ancora d'accordo con lei, che il livello dei bar e diciamo della ristorazione veloce sia un livello sicuramente non importante, cioè molto scadente. Sono d'accordo ancora con lei, però sulla ristorazione, perché mi sembra che il riferimento sia soprattutto la ristorazione che va dalle osterie fino ai ristoranti stellati, quindi per ristorazione intendo questo, non intendiamo il cibo veloce. Su questo io non sono molto d'accordo, però visto che abbiamo con noi, ora abbiamo un critico importante e abbiamo anche uno chef che ha scritto: in ogni caso è comunque vero che in Italia da un po' di tempo si mangia male. E questo cuoco, questo chef, è Matteo Sibilia. Lo ha scritto, quindi non è che può tornare indietro. Vero Sibilia? Tu lo pensi veramente questo? Sì, ma verissimo. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Davide, buongiorno alla signora Borletti. Però vede, Davide, il problema è che finché noi nel nostro, come lo chiamo io, circo, ci parliamo, Mottura, Bolasco, io e altri, forse ormai, come dire, abbiamo già il concetto di cosa vogliamo dirci. In realtà, Davide, lo voglio dire un po' ad alta voce, è che in Italia ci sono 100.000 ristoranti e se togliamo i 300 stellati e quelli recensiti dalle 3-4 guide nazionali, quindi sono 3-4.000 ristoranti, alla fine forse arriviamo a 10.000 ristoranti di qualità. Io l'altro giorno ero a Roma, dove tra l'altro sono andato al Ministero dei Beni Culturali, e ho mangiato in Piazza del Tritone una carbonara fatta con la panna. E adesso se lì i turisti mangiano quella, io poi gli ho detto al cuoco, ho detto scusi, perché mette la panna nella carbonara? La realtà è un po' diversa da quella che noi stessi operatori del settore percepiamo. Io in fondo continuo a dire che la signora Borletti ha detto una cosa vera, ha detto una cosa giusta, e probabilmente l'unica vera strada è prendere per mano la signora Borletti e tentare di riportarla dalla nostra parte e insieme costruire qualcosa di nuovo per la cucina italiana. Perché è chiaro che se parlo con Bottura, con Bolasco, con Pierangelini, diranno la stessa cosa che stiamo dicendo, che in fondo in Italia si mangia bene. Ma il concetto che a Milano ci sono 5.000 ristoranti, ma se stasera qualcuno mi chiedesse dove posso andare a mangiare, ci devo pensare qualche minuto per non perdere l'amico. Beh, insomma... questo è il concetto, Davide, e tu lo sai benissimo perché sei un uomo attento a tutto questo. Ma Anzano, chi fa la cotoletta alla milanese? La fa con la lonza di maiale, non la fa con il vitello. Sì, io su questo, cioè sul discorso dei centri metropolitani posso essere d'accordo con te, però non si può fare di tutto un'erba un fascio. Perché in Italia il livello della ristorazione, diciamo, medio-alta, è cresciuto rispetto al passato. Sì, ormai non abbiamo mai avuto una considerazione internazionale dei nostri chef. L'abbiamo da 4-5 anni. Grazie a tutto il movimento. All'estero, la verità è che considerano la nostra cucina italiana, quando vengono in Italia, pensando alla cucina di casa, di trattoria, dice si mangia bene. Quando poi tornano a New York, Parigi, non vanno mai nei ristoranti italiani, questa è la verità. E le guide estere che sono su quei paesi, a New York, fatta da critici newyorkesi, fatta da critici giapponesi, nelle classifiche non ci considerano mai. Quindi questo è un fatto importante. Certo, abbiamo passato questo gradino e quindi cerchiamo attraverso questo gradino di andare avanti. Voglio chiedere a Enzo Vizzari anche lui cosa ne pensa. Io devo chiedere scusa a voi e a tutti gli ascoltatori, ma non ho avuto modo di ascoltare quello che è stato detto e quindi chiedo preventivamente scusa se ripeterò qualcosa che voi avete già sottolineato, però mi riallaccio a quanto tu hai appena detto, Davide. A me sembra fuori discussione, che e dovrebbe essere fuori discussione, ma forse non lo è, che in Italia oggi, in questi ultimi anni, non si è mai mangiato bene come si mangia appunto oggi. E sono perfettamente d'accordo con te che il livello medio complessivo si sia alzato. La cucina si divide tra cucina buona e cucina cattiva, ancora prima di andare a vedere se è cucina di casa, se è cucina di tradizione, se è cucina di innovazione. Bene, la cucina buona è molto più presente oggi, buona tra virgolette, nei ristoranti medi e alti italiani che non 20 anni fa. Quando quindi la sottosegretario Borletti dice io preferisco le tagliatelle con le pappardelle con la lepre, esprime una rispettabilissima opinione, perché è un'opinione in quanto tale rispettabile. Quando dice che in Italia non si mangia bene da che i cuochi italiani hanno incominciato a scimmiottare, a scopiazzare i cuochi francesi, dice una solenne sciocchezza dovuta a mancanza di informazione, perché questo è assolutamente falso. Quindi davvero non generalizziamo, prendiamo atto del fatto che la nostra cucina, proprio grazie a quelli che io ho definito e continuo a definire gli esponenti della, aperte le virgolette, nuova cucina italiana, sono apprezzati e rispettati in tutto il mondo, ma attenzione, non perché imitano i francesi, gli spagnoli e prossimamente si dirà che imiteranno danesi. I danesi e prossimamente i centro-sudamericani, sì. Esattamente, ecco. No, invece, perché fanno una cucina che parte innanzitutto da una cultura vera, reale, coltivata, dei prodotti nostri, dei prodotti che ci appartengono, e poi li arricchiscono con l'innovazione, ma l'innovazione può essere, deve essere quella autentica salvaguardia dei valori che ci portiamo dentro, non pura ripetizione di quello che ci è stato tramandato. Ecco, quindi davvero non generalizziamo, ma soprattutto, io questo lo dico a chi ha responsabilità istituzionali, parliamo quando ci si è informati. Bene, grazie a Enzo Vizzari. Sentiamo Stefania da Bergamo. Buongiorno Stefania. Sì, buongiorno. Io volevo portare l'esperienza della città di Bergamo. Allora, secondo me sì, molto meglio adesso rispetto a prima, anche perché prima si favoriva più la quantità che la qualità, mentre invece adesso si rispetta molto di più la qualità. A Bergamo adesso stanno facendo una promozione alcuni ristoranti stellati e di livello alto per portare la loro cucina, che comunque è sempre cucina con prodotti del momento, prodotti anche locali, per farla conoscere a tutti, e fanno dei prezzi particolari. Logicamente c'è un menu fisso accompagnato con vini particolari, però possono permettere più o meno a tutti di poter assaggiare la cucina ad un certo livello e ad una certa qualità, e secondo me è una cosa bellissima. Bene, grazie Stefania, torno a Matteo. Matteo, ti do un minuto. Sì, ecco, la signora adesso di Bergamo in fondo ha dato la chiave di lettura di tutta questa storia. Anche Bolasco prima ha detto una cosa verissima: dobbiamo imparare a ricomunicare la ristorazione, ma questo è un altro problema. Ma se evidentemente, se i miei amici di Bergamo, perché sono vicino a Bergamo, fanno una promozione, evidentemente un problema c'è un problema di costi. Io tra l'altro voglio chiudere dicendo anche, io sono un docente di scuola alberghiera a Milano, la più importante che c'è a Milano, cioè ragazzi, noi abbiamo un grosso problema, non riusciamo più a formare i nuovi ragazzi, i nuovi cuochi, perché è vero che la nuova cucina italiana è la bandiera del Made in Italy, e su questo non c'è un breve dubbio, ma stiamo parlando di 50-100 persone, cioè, quindi voglio dire, dobbiamo tentare, io chiudo dicendo che il governo nelle sue varie funzioni, dalla cultura all'economia, deve aiutare la ristorazione, perché questo è quello che noi in fondo chiediamo. La provocazione della Borletti, in fondo io la prendo per mano in questa maniera, dobbiamo riuscire con le istituzioni ad aiutare la ristorazione, perché non è sufficiente ormai il volontariato del singolo cuoco, del grande cuoco che va in giro per il mondo con i suoi soldi a volte, perché questa è la verità. Beh, è certo, vero che si mangia meglio, però insomma, beh, c'è qualche problema. Mettere mano negli istituti professionali, hai perfettamente ragione, sarebbe un'opera di intervento importante per la promozione italiana, ma non solo, esatto, anche per esatto, l'occupazione. Grazie. Bravo. Matteo. Massimo, grazie da Roma, 30 secondi. Pronto, sono io? Sì, 30 secondi. Nulla, era semplicemente, io sono chef a domicilio e mi imbatto nelle varie case. Sono d'accordo con quest'ultimo intervento, nel senso che non bisogna generalizzare, ma la qualità media della ristorazione secondo me si è standardizzata a un livello molto basso. È inutile parlare degli stellati o chi si avvicina agli stellati. Dai, dice, dice diciamo la ristorazione di media, quella media che sarebbe la più importante, perché sicuramente è l'ossatura. È la più importante, certo, certo. Benissimo, sì, questo è un punto di vista che mi sembra che molti abbiano espresso, Massimo, che molti siano d'accordo con lei. Il gastronauta. Eccoci di nuovo nella parte finale appunto di questa discussione. Abbiamo sentito tantissimi pareri, è giusto che sia così, ognuno può pensare a proprio modo e dare il proprio contributo. Bene, ora abbiamo in linea uno chef incredibile, molto giovane, che credo che sia il secondo cavaliere nominato appunto dalla Repubblica, cavaliere, dopo Gualtiero Marchesi, ed è Nico Romito. Buongiorno Nico. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Del Reale di Castel di Sangro in Abruzzo. Allora Nico, io ho visto che tu hai rilasciato anche un'intervista molto sentita su questo tema, che in Italia si mangia peggio che in passato. Sì, quando ho saputo delle dichiarazioni del sottosegretario, un po' mi sono sentito parte in causa di questa discussione, perché faccio questo lavoro da, pure se sono giovane, già da 15 anni. E sì, ho detto che comunque queste riflessioni erano frutto di una non conoscenza di quello che secondo me è successo in Italia in maniera straordinaria negli ultimi 10 anni. Cioè, c'è stata un'evoluzione della cucina italiana, ma soprattutto secondo me il grande valore di questi 10 anni è stato questo miglioramento della cucina contemporanea verso la materia prima e verso le tecniche di cottura. Che vuol dire con questo? Che questo lavoro che abbiamo fatto noi cuochi, i produttori, tutto il sistema giornalistico che si è stretto in questo e ha creato una squadra, ha fatto in modo che c'è stata una forte sensibilizzazione verso il produttore e soprattutto verso le tecniche di cottura. Perché io sono d'accordo e rispetto al massimo e traggo beneficio dalla cucina tradizionale, sono il primo che ha preso e ha riletto, rielaborato, ma i grandi classici, la cucina del proprio territorio e quindi la vera cultura materiale del nostro territorio. Però dobbiamo ragionare che siamo nel 2013, stiamo in un momento, sì, in cui vanno riaggiornati, proprio come si fa con un computer, vanno riaggiornati i software dell'alimentazione. Cioè io non posso più pensare che una cucina di 50 di 50 anni fa, un piatto tradizionale di 50 anni fa è attuale oggi. In che senso? Non negli ingredienti, non nell'idea del piatto, ma nelle tecniche, certo, di cottura. Se una minestra di lenticchie e castagne, io parlo di una ricetta abruzzese classica, si faceva con un battuto di lardo, oggi io preferisco non lavorare con un battuto di lardo, ma cercare di eliminare i grassi per avvicinarmi di più alle nuove esigenze proprio del alimentare che noi dobbiamo avere. Cioè, io questo secondo me è un'evoluzione importantissima che c'è stata e non si può discutere questa evoluzione. Poi io posso pensare che piace di più una tipologia di cucina rispetto a un altro, però penso che in tutti i settori è l'eccellenza e l'alta qualità che trascinano, certo, le tipologie. Certo, certo. Grazie cavaliere Romito, grazie. Bene, ora abbiamo con noi Gennaro Esposito appunto di Torre Saracina di Vico Equense. Gennaro, credo che vorrei invitare io per te, Gennaro, che nei prossimi giorni è l'organizzatore di questa splendida manifestazione che si chiama Festa di Vico, perché a Vico Equense se lunedì ci saranno qualcosa come 80 cuochi italiani che diciamo ognuno di loro farà un piatto. Io credo che andando lì uno può vedere cos'è la cucina italiana, perché 80 sono provenienti da tutta Italia, sono già un bel numero. No, Gennaro, tu cosa ne pensi? Certo. Buongiorno a tutti. No, intanto voglio dire che noi cominciamo domani sera con 70 giovani cuochi che saranno sparsi nel centro del paese di Vico, di Cagliari ovviamente, e in tutti i negozi di Vico faranno la loro cucina, e questo è la testimonianza dell'entusiasmo e della voglia di raccontare la cucina praticamente alla gente, e anche con un messaggio molto aperto. Non dobbiamo fare in modo che la cucina diventi un salotto borghese, alto borghese, diciamo proibitivo, ma piuttosto dobbiamo aprire le nostre cucine, le nostre idee e raccontarle alla gente. Quindi questo è il primo modo, e domani, Festa della Repubblica, noi faremo la Repubblica del Cibo a Vico con 70 cuochi giovani da tutta Italia. Ecco, lunedì invece abbiamo 80 grandissimi nomi, tra cui Nico che parlava un attimo fa, che invece faremo un grande aperitivo per un'altra serata, lunedì sera, con un concerto di Nicola Piovani, sempre per dire che poi la cucina italiana ha voglia di fare. Ecco, quindi credo che uno che venga a Vico, cioè, si può testimoniare il livello di qualità, perché 80 più 70 fanno 150 cuochi provenienti da tutta Italia, molti di questi giovani, quindi lì si avrà un il termometro appunto della ristorazione. Ma io ho con noi anche Fausto Arrighi è stato per tanti anni il direttore della guida Michelin. Tutti dicono appunto che la Michelin premia i francesi, che segue la cucina francese. Fausto, ma voglio chiederti, ma è vero che la cucina italiana e la ristorazione italiana segue e copia la cucina francese? Ma chi l'ha detto? L'ha detto il sottosegretario alla cultura, quindi, che poi ha detto che non, cioè le sue dichiarazioni sono state così mal interpretate, però di seguire la cucina francese, i modelli di cucina francese, lo ha detto, credo. Ma guarda, questo non è vero. Noi abbiamo dei giovani, ne abbiamo sentiti due in questo momento, straordinari per una creatività, per quello che sanno esaltare con i prodotti di un territorio come quello italiano, estremamente ricco di mille diversità. Questo, certo, la cucina è cambiata, ma eravamo figli di trattori, non avevamo nemmeno figli di ristoratori in Italia. Oggi abbiamo delle eccellenze che sono internazionali, i nostri chef vanno ed esportano anche questa bellissima immagine del nostro paese, quella della cucina che si è evoluta certamente. D'altro canto noi abbiamo aperto le porte a tante novità, gente che è arrivata dai paesi asiatici, che ha aperto, certo, i ristoranti. Noi siamo sempre in ritardo rispetto ad altri paesi europei, ma li abbiamo accettati, li abbiamo accolti, fanno la loro cucina, ma la nostra c'è, esiste ed è vera. Ecco Fausto, tu che come guida Michelin giravate non so quanti, 3.000 locali, quindi anche i locali medi. E hai avuto l'impressione che ci sia stata una spinta verso l'alto, cioè dei bravi siano andati verso l'alto e invece la ristorazione media sia veramente tornata indietro e quindi la qualità sia scadente? No, sulla qualità scadente qui non direi, ecco, sta cambiando la cucina, sta cambiando la metodologia per cucinare certe materie, si lavora al meglio, quindi si cerca anche di dare una cucina meno pesante, più digeribili per tutti in tutti i sensi, ecco, la cucina media comunque c'è, esiste ed è anche valida. Con noi nelle selezioni che abbiamo fatto sui nostri ristoranti, dove l'80% di ristoranti segnati è di fascia media, abbiamo sempre trovato delle ottime realtà, ecco. Non penso che la cucina si mangi peggio oggi rispetto al passato, anzi direi il contrario. Bene, grazie a Fausto Righi, grazie a Gennaro Esposito. Sentiamo Domenico da Roma, un radioascoltatore. Sì, buongiorno, ben trovato dottor Paolini. Dunque io, visto che per lavoro viaggio molto, in modo di maniera di usufruire di diverse cucine, no? Tipo regionali, eccetera. Qui il problema qual è? Il problema non è che in Italia non si mangi bene, secondo me, nella mia umile, diciamo, esperienza, sì. Esatto, è che il problema è che se io faccio un'ipotesi molto, molto semplice, se chiedo uno spaghetto alle vongole veraci, se mi viene fatto, ipotesi, a Bologna è un conto, se mi viene fatto a Roma è un altro. Perché? Perché non tutte le tecniche, credo, di voler spurgare una vongola o di volere sabbiare la vongola, che una volta si diceva sabbiare, cioè togliere la sabbia, come si fa? È una tecnica che sanno in pochi, non perché la so io, me lo dissero degli chef, vanno sbattute prima nel lavello, perché bene, altrimenti ti mangi lo spaghetto alla sabbia, non alle vongole. Ed è frequente questo problema, visto il piatto estivo che è. Quindi lei, è in dice che, lei dice che l'esperienza e la tecnica mancano. Cominciano... un pochino di tecnica, però noi, guardi, le assicuro che la cucina italiana non ha nulla da vedere con quella francese. Bene. Grazie a Domenico da Roma. Ebbene, ora io ringrazio Benedetta Acri in assistenza, Carmelo Lauducella in regia. Vi do appuntamento domani durante il riposo del guerriero alle 11:40, dove come ogni domenica ormai, diciamo, racconto le mie pillole, le mie scoperte settimanali, suggerimenti. Quindi si parlerà di ristoranti, si parlerà di vino, si parlerà di prodotti, ecco, soprattutto di prodotti, perché credo, come abbiamo visto anche da questa trasmissione, tutto quello viene messo in discussione, escluso, diciamo, questa ricchezza che noi abbiamo, questa diversità di prodotto che è la vera forza di questo paese. Io credo che quindi bisogna basare molto su questo, magari usare meno prodotti che arrivano dall'estero, meno prodotti, diciamo, che sono di seconda qualità, perché chi vuol fare una grande cucina anche nella ristorazione media può farla, perché l'offerta dei prodotti italiani è sicuramente superiore a tutta quella degli altri paesi. Quindi non è un fatto di sciovinismo il mio, ma questo ci viene anche riconosciuto. E è vero, esiste una cucina regionale diversa dall'uno all'altro chilometro, però sicuramente viene ancora rispettata, perché non è vero, se uno va in Emilia trova la pasta che cambia da chilometro in chilometro, diventa tortellino, diventa cappelletto e via di seguito. Quindi la diversità viene rispettata, però sicuramente ci deve essere un tipo di cucina che è tradizionale locale, ma ci può essere anche un tipo di cucina che viene riconosciuta a livello internazionale, come è successo negli ultimi anni per certe cucine che prima non esistevano, a cominciare da quella spagnola e poi da quella danese. Bene, un caro saluto e buon weekend da Davide Paolini.